Non ci può essere vera solidarietà senza uno Stato efficiente. Non c'è rispetto dei diritti e tutela dei cittadini. Non c'è libertà d'impresa, non c'è giustizia, non c'è buona istruzione, non c'è legalità, non c'è lotta all'evasione. Servono uno Stato leggero e rigoroso, una pubblica amministrazione che funzioni, vicina ai cittadini e alle imprese, inflessibile contro chi non rispetta le regole e danneggia la comunità. Ci sono molte isole di eccellenza anche all'interno della macchina pubblica, ma si tratta di generosità individuali e di professionalità isolate. I dipendenti pubblici in Italia sono mal distribuiti per funzione e sul territorio. In rapporto agli abitanti, al sud sono il 50% in più che al nord. Serve una grande ristrutturazione. Si devono utilizzare in modo oculato il turnover, la mobilità geografica e gli ammortizzatori sociali di durata limitata. Se uno è giovane e ha talento, difficilmente si fa strada negli uffici statali. Lo scriveva un secolo fa il romanziere Hasek. Da noi poco è cambiato. È necessaria un'azione di medio termine per coinvolgere e valorizzare il personale migliore, i funzionari pubblici capaci, e di penalizzare i furbi. Questo sarà un banco di prova anche per i sindacati. Leggiamo che i fannulloni verranno licenziati. È un principio che ci trova pienamente d'accordo, a patto che alle parole seguano i fatti, altrimenti sarà l'ennesima sconfitta di tutti coloro che nel privato come nel pubblico lavorano con serietà.